Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Milano e le sue imprese. Quattro storie di passione per il lavoro. Di Andrea Ferro. Parte oggi un ciclo speciale di voci di impresa che segue le tappe di Imprese Vincenti, iniziativa attraverso la quale Intesa San Paolo valorizza le piccole e medie imprese. Testimonianze di eccellenze produttive nel segno dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, della sostenibilità, degli investimenti sul capitale umano. Oggi il Digital Tour ha fatto tappa a Milano. Quattro imprese, quattro storie. Quella di Caimi Brevetti è cominciata tempo fa ed è una storia costantemente segnata dalla spiccata tendenza alla versatilità. Sboccia nel primo dopoguerra, come ci racconta l'amministratore delegato Lorenzo Caimi. Dal 1949 siamo sul mercato. In questi anni la produzione è stata riconvertita parecchie volte, fino ad arrivare negli ultimi 30 anni nel settore dell'arredo e dell'arredo per ufficio e i complementi d'arredo per ufficio, e negli ultimi 10 anni nel settore dell'acustica. Siamo l'azienda leader in Italia produttrice di pannelli fonoassorbenti di design per la correzione acustica nei diversi ambienti. Noi lavoriamo in 70 paesi, esportiamo in 70 paesi di 5 continenti. Siamo comunque anche molto forti in Italia, diciamo che il fatturato è circa metà e metà. Il nostro è un lavoro abbastanza complesso, per carità, non produciamo sottomarini nucleari, ma un'azienda che gestisce 5.000 clienti in tutto il mondo con 3.500 prodotti composti da 35.000 componenti. Attenzione massima al design, originalità delle produzioni, voglia di sorprendere. Sin dall'inizio sono gli elementi caratterizzanti dell'azienda che ha sede a Nova Milanese. Il fatturato sfiora i 16 milioni, i dipendenti sono una cinquantina. Passaggio fondamentale è la ricerca che ci distingue dal 49, quando papà, che è ancora l'attuale presidente della società, ha disegnato i primi prodotti iconici, tra cui la schiscetta, che rappresenta un po' la Milano del dopoguerra, e quella di dare sempre delle risposte alle esigenze del mercato, possibilmente anticipandole, ma sempre con innovazione e con design. In un tempo particolare, tra incognite e voglia di ripartire in fretta, Lorenzo Caimi, AD dell'azienda, guarda al futuro con fiducia. Lavorando nel settore dell'ufficio, essendo tutti gli uffici in smart working, gioco forza, dobbiamo reinventarci. Reinventarci vuol dire capire quelle che sono le nuove esigenze ed anticiparle. È anche vero che siamo una leader del mercato e tracciamo noi la strada e non vogliamo sparare le cartucce troppo presto per evitare di dare vantaggi competitivi alla concorrenza. Un'altra storia molto italiana di intraprendenza imprenditoriale arriva da Trezzo sull'Adda. È la storia di Cofle, gruppo specializzato nella produzione di comandi e sistemi di controlli per auto e mezzi agricoli. Walter Barbieri è l'amministratore delegato. Inizia con la storia di mio padre, che era entrato come facchino in questa divisione di multinazionale americana che produceva appunto cavi, e strada facendo e studiando contemporaneamente è diventato il capo reparto responsabile di produzione, finché, come tutti i bravi italiani d'inizio del boom economico degli anni 60, finiva il lavoro e alla sera a casa, poi si portava a casa il lavoro da fare. Questa attività poi a casa è diventata sempre più grande, si è licenziato e è partito facendo il lavoro in proprio. Qui è nata, diciamo, la costola, qui è nata la Cofle. L'attività è quella di produzione di control cable e control system, che detto più volgarmente sono i cavi di comando per le autovetture, cavo freno a mano, cavo di frizione, acceleratori, tutto quanto è comandato attraverso un cavo, e i sistemi che sono praticamente appunto sistemi di comando i quali coinvolgono il cavo, che poi dopo noi abbiamo appunto fatto il salto evolutivo che oltre che fare il cavo abbiamo fatto tutto il sistema di comando. Col passare degli anni, Kofle ha valicato i confini nazionali ed è diventato un marchio conosciuto in tutto il mondo. Oggi l'azienda conta 600 dipendenti e fattura quasi 37 milioni di euro. Con l'ingresso della seconda generazione, quindi l'ingresso dei figli noi, questa realtà è diventata internazionale, con l'espansione sui mercati esteri, non solo in termini di vendite, ma e soprattutto in termini di plant e di sister company, di location, insomma, partendo dalla Turchia, poi passando per il Brasile, la Cina, l'India, creando delle attività produttive e commerciali in loco. Quindi la dimensione è diventata internazionale, una piccola multinazionale trascabile. Sempre dall'Interland milanese, questa volta siamo a Cusago, arriva la storia di Eurosirel, azienda leader in Europa nella produzione di dispositivi medici e cosmetici. Ivan Palozzo è il responsabile export. È una società che esiste da più di 45 anni e grazie a un continuo sviluppo, una serie di investimenti importanti nel corso degli anni, oggi è uno dei player principali a livello europeo nella produzione e distribuzione in private label di cerotti per medicazioni avanzate, maschere cosmetiche in idrogel di nostra tecnologia, e quindi una serie di prodotti che oggi ci hanno portato a essere tra i principali protagonisti nei mercati internazionali. Oggi Eurosirel, un centinaio di dipendenti e 38 milioni di fatturato, distribuisce i suoi prodotti in 68 paesi, seguendo un costante trend di crescita. Europa, abbiamo recentemente aperto negli Stati Uniti una nostra sede operativa, sud-est asiatico e Middle East in particolare. Soprattutto gli Stati Uniti, il mercato dal quale ci aspettiamo una maggiore crescita nei prossimi 5 anni, è sicuramente il mercato americano. L'azienda è in costante crescita già dagli ultimi 15 anni, a doppia cifra percentuale, e grazie agli investimenti della proprietà oggi come oggi stiamo sviluppando numerosi nuovi prodotti all'avanguardia sia dal punto di vista medicale che dal punto di vista cosmetico, quindi ci attendiamo una continua crescita anche per i prossimi anni, anche in un periodo come questo particolarmente difficile. A Pogliano Milanese ha sede la Longino e Cardinal, da oltre 30 anni un punto di riferimento per la ristorazione d'eccellenza. La specialità è scovare in tutto il mondo cibi rari e preziosi da proporre sulle tavole più esigenti. Riccardo Uleri è l'amministratore delegato. La Longino è stata fondata alla fine degli anni 80 da quattro ragazzi alla Spezia appassionati di cibo e di ristorazione. Lì ci siamo conosciuti, io avevo appena finito l'università e dopo un'avventura imprenditoriale in un'azienda di famiglia che era stata venduta, ero molto appassionato di cibo e di vino, avevo deciso di dedicarmi più o meno a questo. Ho conosciuto questi ragazzi che appunto volevano trovare qualcuno che potesse gestire a tempo pieno la società, io a quel tempo ero disoccupato perché ero uscito dall'avventura della mia famiglia nel campo del tessile, e ho investito queste 2 lire a comprare questa società. Io viaggio moltissimo per lavoro perché abbiamo anche delle società all'estero, Hong Kong, Dubai e New York, e quindi vedendo ristoranti da altre parti del mondo magari trovo dei prodotti che non conosco, faccio una ricerca di che prodotti possono essere e risalgo la corrente fino al produttore. Solitamente vado a visitare i luoghi di produzione per capire esattamente di cosa si sta parlando, e così nascono a volte dei prodotti che importiamo. Oggi Longino e Cardinal ha un portafoglio di 4.500 clienti, tra loro l'80% degli chef stellati. Il fatturato è di 33 milioni con una settantina di dipendenti. Tra le caratteristiche della società, quella di anticipare le tendenze del gusto e del palato. Noi cerchiamo di anticipare un po' i trend di comprodotti che speriamo che non conoscano, soprattutto non conoscono, magari non sono importati o sono prodotti diversi, perché tipo la carne spagnola, naturalmente parliamo di una carne, quindi di cose che si conoscono, però con caratteristiche completamente differenti da quelle alle quali erano abituati i nostri clienti. Diciamo, noi la nostra caratteristica è non cercare prodotti su richiesta dei nostri chef, ma cercare appunto delle idee nuove da proporre loro. Quindi, per esempio, siamo stati tra i primi assolutamente a importare il prosciutto iberico, che oggi è molto famoso, però parliamo del 95, perché prima era vietato per la peste porcina che c'era stato in Spagna, così come anche la Cecina de León, sempre dalla Spagna, piuttosto che il plancton marino. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it.